Gentili ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti all'ascolto della Parola di Dio. Continuiamo le nostre riflessioni in merito alla presenza di Cristo nell'Antico Testamento nella persona di Yahweh. Abbiamo considerato nelle trasmissioni precedenti che i nomi più usati per la divinità di Israele e dei cristiani sono tre: Elohim e Adonai, nomi comuni, e il tetragramma, o Yahweh, il nome proprio, che vengono tradotti nella Bibbia Nuova Diodati con Dio, Signore e Eterno. Nell'ultima trasmissione ci siamo posti la domanda: chi ha preso l'iniziativa di attribuire il nome Yahweh alla divinità di Israele e dei cristiani? E forse dipeso da una decisione degli scrittori sacri fare tale abbinamento? No, Yahweh è il nome che la divinità di Israele si è data da sé. Infatti, quando Mosè incontrò per la prima volta la divinità dei suoi padri, gli chiese il suo nome e lui gli rispose: «Io sono colui che sono». Gli studiosi affermano che il nome Yahweh viene da un verbo essere e include i tre tempi di tale verbo, cioè il passato, presente e futuro. In ebraico, la lingua dell'Antico Testamento, ci sono due tempi verbali: il perfetto, che indica un'azione compiuta, e l'imperfetto, che indica un'azione incompiuta. Pertanto questo nome significa colui che era, che è e che sarà. In altre parole, l'Eterno. Come abbiamo detto nella trasmissione precedente, che ha una certa dimestichezza delle scritture, per associazione di idee, comprende che chi parlava era Cristo. Infatti, di lui scrive l'autore della lettera agli ebrei che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dunque, nessuno prima di Mosè aveva conosciuto questo aspetto della divinità. Il fatto che nessuno prima di Mosè conoscesse la divinità dei padri col suo nome proprio e specifico di Yahweh è affermato chiaramente anche da Yahweh stesso quando disse a Mosè nel libro dell'Esodo al capitolo 6 le seguenti parole: «Io, Yahweh, sono apparso ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe come El Shaddai, cioè Dio Onnipotente, ma non mi ero mai fatto conoscere da loro con il mio nome di Yahweh». La divinità, non raggiungibile dalla mente umana, quindi si è rivelata con il suo proprio nome, Yahweh, per la prima volta a Mosè. Si potrebbe obiettare che anche i padri di Israele, quali Abramo e Giacobbe, ebbero a che fare con Yahweh e credettero in lui. E questo è vero, ma non lo conoscevano come tale. Lo conoscevano come El Elyon, cioè il Dio Altissimo, come El Olam, cioè l'Iddio d'eternità, o come El Shaddai, l'Iddio onnipotente, ma non come Yahweh, cioè colui che era, che è e che sarà. Questo dato rivelativo è davvero fondamentale e come tale va tenuto in considerazione. Dobbiamo rimarcare un aspetto importante per poter comprendere il messaggio di Dio. Il popolo di Israele e i profeti non credevano in Dio così come noi lo intendiamo con la rivelazione di Gesù, ma essi credevano che Yahweh fosse il loro Dio, la loro divinità. I popoli circonvicini professavano ognuno la loro divinità e ciascuna di queste divinità aveva un nome proprio. Anche il popolo di Israele, quindi, dopo l'uscita dall'Egitto, aveva la sua divinità, che si chiamava Yahweh. Infatti, dall'uscita dall'Egitto in poi, i figli di Israele proclamarono il nome di Yahweh quale loro Dio o divinità. Ascoltiamo una serie di letture. Nel Salmo 68. «Cantate a Dio, cantate lodi al suo nome». Preparate la via a colui che cavalca nei deserti. Il suo nome è Yahweh. esultate davanti a lui. Nel libro dell'Esodo: Yahweh è un uomo di guerra, il suo nome è Yahweh. Nel profeta Isaia: Io sono Yahweh, questo è il mio nome. Nel libro del profeta Geremia: Sapranno che il mio nome è Yahweh. E ancora nel libro del profeta Isaia: Poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è Yahweh degli eserciti, il tuo redentore è il Santo di Israele, chiamato Dio di tutta la terra. L'ultima affermazione del profeta Isaia non può passare inosservata. La divinità dei figli di Israele si definisse lo sposo, il redentore e il santo. Nessuno può mettere in dubbio che queste qualifiche sono attribuite a Gesù, quale sposo, redentore e santo. Se nelle nostre trasmissioni affermiamo che Yahweh, la divinità del popolo di Israele e anche la divinità dei cristiani, lo facciamo a ragion veduta, perché Cristo è tanto il Dio dei cristiani quanto quello degli ebrei. La differenza sta nel fatto che gli ebrei non lo hanno riconosciuto. È da tenere in considerazione che solo dopo aver liberato il popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto che Yahweh rivendica il diritto di essere la divinità del popolo. Lo esprime molto bene nel libro del Levitico al capitolo 11. Poiché io sono l'Eterno che vi ho fatto salire dal paese d'Egitto per essere il vostro Dio. Siate dunque santi perché io sono santo. E ancora nel libro dei Numeri al capitolo 15. Io sono l'Eterno, il vostro Dio, che vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto per essere il vostro Dio. Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Proprio perché l'Eterno aveva liberato Israele dalla schiavitù, egli inizia i 10 comandamenti nel libro dell'Esodo, al capitolo 20, nel seguente modo. Dio pronunziò tutte queste parole dicendo: Io, Yahweh, Elohim tuo, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, non avrai altri dei davanti a me. La divinità di Israele, dunque, Yahweh, rivendica per sé l'unico culto. Proprio perché Yahweh è stato l'unica divinità a liberare il popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto, a motivo di questa liberazione e rivelazione, il pio israelita affermava la confessione di fede così come espressa nel libro del Deuteronomio, al capitolo 6. Ascolta, Israele, Yahweh, Elohim nostro, Yahweh uno. Questa dichiarazione di fede è tuttora valida per il popolo di Israele che la recita ogni giorno. Per il credente dell'Antico Testamento, dunque, Yahweh era la sua divinità, il suo Dio, l'unico Dio di tutta la terra, il liberatore, il guerriero, il redentore, il santo, lo sposo. Proprio per questo la beatitudine di una nazione agli occhi di Israele consisteva nell'essere consacrata a Yahweh, ad essere da questi adottata. Questa è la testimonianza del salmista. Beata la nazione il cui Dio è Yahweh, beato il popolo che egli ha scelto per sua eredità. E questa era la testimonianza del profeta Michea. Mentre tutti i popoli camminano ciascuno nel nome del suo Dio, noi cammineremo nel nome di Yahweh, Elohim nostro per sempre. Yahweh, dunque, doveva essere l'unica divinità per il pio israelita e per esprimere questo fatto, egli doveva rifiutare le altre divinità. In effetti, il monoteismo non consiste tanto nell'avere una sola divinità, quanto nella proibizione di essere sottomessi ad altre. Proprio perché Yahweh non doveva essere paragonato ad altre divinità, troviamo l'ingiunzione di avere come divinità solo Yahweh quasi 500 volte e in tre espressioni diverse: l'Eterno il tuo Dio, o l'Eterno il vostro Dio, oppure l'Eterno il nostro Dio. Queste espressioni vanno comprese nel seguente modo: la tua, o la nostra, o la vostra divinità è Yahweh. Ascoltiamo ora la lettura di due brani per dimostrare quanto siano frequenti queste affermazioni. Il primo è nel libro del Deuteronomio, al capitolo 10. E ora, o Israele, che cosa richiede da te Yahweh, Elohim tuo, se non di temere Yahweh, Elohim tuo, di camminare in tutte le sue vie, di amarlo e di servire Yahweh, Elohim tuo, con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima. E ancora al capitolo 23 dello stesso libro. Ciò nonostante Yahweh, Elohim tuo, non volle ascoltare Balaam, ma Yahweh, Elohim tuo, mutò per te la maledizione in benedizione, perché Yahweh, Elohim tuo, ti ama. Non si può rimanere indifferenti di fronte a tanta insistenza. È per questo che è grave adorare e solo anche postrarsi in segno di adorazione e venerazione davanti a qualsiasi persona umana, compreso pure le statue. È il peggiore dei peccati. Dunque, proprio perché Yahweh era la divinità di Israele, egli doveva essere l'unico in tutto. Ascoltiamo la lettura nel libro del Deuteronomio. Poiché Yahweh, il vostro Dio, è il Dio degli dèi, il Signore dei signori, il Dio grande, forte e tremendo, che non usa alcuna parzialità e non accetta regali. Ascoltiamo ora la lettura nel libro di Isaia. Annunziatelo e presentate le vostre ragioni. Sì, si consiglino pure insieme. Chi ha annunciato questo fin dai tempi antichi e l'ha predetto da lungo tempo? Non sono forse io, Yahweh? Non vi è altro Dio fuori di me, un Dio giusto, un Salvatore. Non c'è nessuno fuori di me. Ascoltiamo nel libro del profeta Osea. Eppure io sono Yahweh, il tuo Dio, fin dal paese d'Egitto. Tu non devi riconoscere altro Dio fuori di me e non c'è altro Salvatore fuori di me. E infine la lettura nel libro del Deuteronomio. Ora vedete che io sono Lui e che non vi è altro Dio accanto a me. Questo ultimo versetto merita una precisazione, perché la traduzione di questo testo è grammaticalmente ostica e i traduttori non sempre hanno rispettato il testo ebraico. La Bibbia dell'Uzzi, la Nuova Riveduta, la Bibbia del Nardoni, la CEI, quella della Mariani, la Bibbia Concordata, quella del Garofalo, traducono Deuteronomio, capitolo 32 e versetto 39, ora vedete che io solo sono Dio. Oppure con altre lievi varianti come vedete, ora sono io lo sono. Solo la Bibbia del Diodati, traducendo letteralmente dall'ebraico, rende questo versetto: ora vedete che io sono Lui. Alla luce di quanto stiamo studiando, questa affermazione è veramente unica. L'espressione che troviamo appunto nel libro del Deuteronomio, capitolo 32, versetto 39, appartiene ad un cantico che l'Eterno ha messo sulla bocca di Mosè perché lo insegnasse al popolo. È Yahweh che parla, affermando di essere Lui e che non vi sia altro Elohim accanto. È dunque Yahweh che, per identificare se stesso, si rapporta ad un altro soggetto, identificandosi con la sua persona. Yahweh presenta se stesso come una password, colui che è accessibile mediante il suo nome. Nell'originale ebraico troviamo questa espressione anche nel libro di Isaia, ma anche qui i traduttori non ne hanno rispettato il senso letterale, molto probabilmente per rispettare i canoni della lingua italiana. Ora ci si pone una domanda. Se il Dio o la divinità degli ebrei si chiama Yahweh, come si chiama il Dio o la divinità dei cristiani? L'Apostolo Giovanni non ha dubbi a riguardo. Ecco la sua testimonianza. Ma noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento affinché conosciamo colui che è il vero. E noi siamo nel vero, nel suo Figlio Gesù Cristo. Questo è il vero Dio e la vita eterna. Per i cristiani il vero Dio e la vita eterna è Gesù Cristo, cioè Yahweh dell'Antico Testamento. È vero che i cristiani credono in una divinità in seno alla quale sussistono tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ma ognuna delle tre persone è unica, distinta. Yahweh non è un nome impersonabile attribuibile alla Trinità, come per noi il termine Dio che è riferito ad ogni divinità o a tutte e tre le persone della Trinità, ma è una persona della Trinità, cioè Gesù Cristo. Ci risentiamo, cari ascoltatori, alla prossima per continuare e terminare questo importante aspetto della persona del Figlio di Dio. Ciao a tutti.